ci mettiamo a parlare di tutti i film, di tutti i premi, facciamo una puntata, e quindi mi soffermerò solo sui sugli conferimenti, sulle statuette più importanti e sui film che mi hanno incuriosito molto. Oggi è una giornata molto particolare per noi in Italia, perché ovviamente i cinefili e lettori hanno questa doppia emozione, quindi sarà veramente una lunga, lunga notte. Allora, diciamo che chi si staccherà magari alternativamente a Radio Fujiko per dare un occhio anche alla cerimonia di premiazione, vi dico che inizierà alle 2 di questa mattina, si potrà vedere in chiaro su canale 8 del digitale terrestre, invece su Sky sarà Cinema Oscar, canale 304 per chi ha Sky. E a condurla sarà anche quest'anno il presentatore ABC Jimmy Kimmel, e vediamo subito le principali candidature. Parto ovviamente con i film, veramente imponenti alcuni titoli, però parto con Chiamami col tuo nome, il film del nostro Luca Guadagnino, poi abbiamo L'ora più buia di Joe Wright, Dunkirk di Christopher Nolan, Scappa, Get Out di Jordan Peele, Lady Bird di Greta Gerwig, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, The Post di Steven Spielberg, La forma dell'acqua o The Shape of Water, come lo volete chiamare, di Guillermo del Toro, e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, che già ha fatto incetta, vi ricordo, di Golden Globe, anticamera degli Oscar. E in questa rosa di film, non vi parlerò di tutti i motivi di tempo, mi soffermo su tre che mi hanno particolarmente colpito proprio per la loro innovazione in un certo senso. Allora, in primis Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che è una coproduzione internazionale sceneggiata niente meno che da James Ivory, e film che dopo 9 anni chiude anche la trilogia del desiderio di Guadagnino, che Guadagnino ha iniziato nel 2009 con Io sono l'amore, e proseguita poi con il bruttissimo, e fargli un complimento, bruttissimo Bigger Splash, portato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nel 2015. Chiamami col tuo nome è stato girato a Crema e dintorni, ha ben 4 candidature come miglior film, come miglior attore protagonista per il giovane Timothée Chalamet, come miglior sceneggiatura non originale, per la miglior canzone, che vi ricordo è Mystery of Love, perché avesse visto poi il film. Un particolare di Chiamami col tuo nome è che la gestazione è stata davvero molto lunga, e che inizialmente Guadagnino era stato coinvolto solo come location manager, e lo stesso Ivory avrebbe dovuto essere il principale regista del film, invece poi alla fine non è andata così. È impossibile quindi non fare il tifo per l'unico colore italiano tra i premi più importanti, anche se il film è bello ma non eccezionale. E dei titoli che vi ho citato, la candidatura che invece mi ha molto molto stupito, anzi le candidature, perché in lizza anche per miglior sceneggiatura originale, per miglior regia e per miglior attore protagonista, è stata quella di Scappa, Get Out, che è un film assolutamente nerdissimo e molto originale, che mi ha davvero entusiasmato. Da noi è transitato molto brevemente nei mesi scorsi nei multiplex, e lo possiamo definire un indovina chi viene a cena horror, come vi ho detto. Sì, è veramente così. Quindi è anche strano il tipo di genere candidato all'Oscar. Sì, è veramente particolare, perché ovviamente non capita spesso di vedere un film, una produzione tra l'altro indipendente come questa, transitare nel premio principale forse della manifestazione. E io lo straconsiglio, quindi se qualcuno riuscisse a recuperarlo comunque da vedere, perché ha dei veri colpi di scena e anche puro divertimento comunque, perché come vi ho detto è un film da nerd e l'interpretazione degli attori è veramente ottima, a partire da Daniel Kaluuya, che è candidato tra l'altro come miglior attore protagonista, che ha nei panni di Chris, che è un fotografo di colore invitato dalla fidanzata Bianca a conoscere la borghesissima famiglia di lei, e l'incontro si rivelerà infernale veramente sotto ogni punto di vista. E quindi faccio una vera e propria ola per chi è riuscito a infilare tra gli interessatissimi membri dell'Academy questo film. L'ultimo dei miei 3 titoli nel premio principale, appunto, del miglior film, candidati per caso, li chiamo io, non può che essere Lady Bird, diretto dalla vulcanica Greta Gerwig, che i cinefili già conoscono come attrice in lungometraggi interessanti come Frances Ha, diretto dal suo compagno, tra l'altro, e Jackie di Pablo Larraín. 5 candidature per il suo film, che già si è portato a casa 2 Golden Globe. È una storia di formazione al femminile, mentre Guadagnino, ricordo, mostra invece un'adolescenza maschile, con Chalamet che ritroviamo tra l'altro anche come figura maschile in questo film. Consentitemi di evidenziare che la Gerwig è la 5ª donna in assoluto a concorrere per la statuetta come miglior regista. Prima di lei, vi ricordo ancora, era accaduto in passato a Lina Wertmüller con Pasqualino Sette Bellezze, Jane Campion con Lezioni di piano, Sofia Coppola con Lost in Translation e Catherine Bigelow con The Art Locker, che è l'unica tra l'altro ad averlo vinto fino ad ora. Quindi sono molto curiosa di vedere se riuscirà a conquistare qualche premio anche la Gerwig. Il film è nelle sale italiane dal 1 marzo, quindi non avete scuse, andate a vederlo. E per i veri veri big, che per me sono The Shape of Water e I Tre Manifesti Happy in Missouri, è interessante vedere come la mostra internazionale d'arte cinematografica da qualche anno a questa parte stia presentando i film, stia facendo da biglietto da visita, insomma da apripista a film che sono candidati a una montagna di statuette. E The Shape of Water, La forma dell'acqua, ha vinto Venezia lo scorso anno, mentre I Tre Manifesti ha vinto il premio Losella come miglior sceneggiatura. Veniamo invece agli attori, se hai qualche domanda ovviamente interrompimi pure, se no vado a fiume. Per le candidature, i protagonisti, mi soffermerei per quanto riguarda quelle maschile su Gary Oldman, nome super favorito per l'interpretazione di Winston Churchill nell'ora più buia di Joe Wright, film assolutamente non memorabile a mio avviso, ma sorretto dalla sua magistrale interpretazione. E mi soffermerei soprattutto sul ritorno del grandissimo Daniel Day-Lewis, meraviglioso nel Filo nascosto, e dell'altrettanto immenso Paul Thomas Anderson. Lewis ha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo questo film, mi auguro non sia vero, ma intanto staremo a vedere che accadrà questa notte. Per quanto riguarda le donne, la grande favorita, e ha ragione, è Frances McDormand per I Tre Manifesti Happy in Missouri, film in cui secondo me lei fa se stessa. Forse quindi non ha dovuto simulare. Esatto. Ho avuto modo di incrociarla a Venezia la scorsa estate e la sua determinazione devo dire che mi ha davvero colpito. E parallelamente ho trovato meravigliosa, come sempre del resto, Mary Streep nel film The Post, che è un'opera robusta, un bel ritorno di Spielberg, doppiato però ahimè in modo terribile, quindi sì. Chi è riuscito a vedere la versione originale sicuramente ne ha beneficiato. E Spielberg è stato escluso dalla rosa dei migliori registi, quindi vedremo se a questo film sarà comunque conferito qualche riconoscimento. Anna, sei stata assolutamente esaustiva. A che ore viene proclamato il vincitore stanotte? La premiazione inizierà alle 2 di questa mattina, di lunedì, insomma, sì, tra qualche ora. Tra 2 ore. Quindi è più facile che riusciamo a dare prima i vincitori che gli esiti delle nostre elezioni. Se ho qualche minuto dico qualcosa ancora sui registi, altrimenti ci salutiamo, dimmi tu. Dici pure dei registi, sì sì. Ecco, allora dicevo che appunto alla miglior regia abbiamo Christopher Nolan per Dunkirk, film che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per il lavoro proprio perfetto di ricostruzione di fotografia e di stile registico che Nolan ha ci ha mostrato. E c'è Jordan Peele sempre per Scappa, Get Out, Greta Gerwig appunto per Lady Bird, poi Thomas Anderson per Il Filo Nascosto e Guillermo del Toro per La Forma dell'Acqua. E, come dicevo, non troviamo né Spielberg né Martin McDonagh, regista dei Tre Manifesti, troviamo invece da inevitabile appunto Guillermo del Toro. E La Forma dell'Acqua è il grandissimo favorito di questa 90ª edizione degli Oscar. Se consideriamo talento e film memorabili, il mio cuore va però a Paul Thomas Anderson, che vi ricordo per film fantastici tipo Boogie Nights, Magnolia, Il Petroliere, The Master, regista che reputo uno dei più grandi della nostra contemporaneità. E, bellissima invece la selezione dei finalisti per il miglior film straniero, quest'anno è particolarmente interessante secondo me, e, quindi i paesi rappresentati sono il Cile con Una donna fantastica di Sébastien Leliot, L'insulto di Ziad Doueiri, che è assistente alla regia di Quentin Tarantino, rappresenta il Libano. Per questo film Kamel El Basha, uno dei due protagonisti, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia lo scorso anno, e, ed è in lista tra l'altro come miglior film straniero anche per I David di Donatello. È un film meraviglioso, fa capire le origini del conflitto musulmano e cristiano nel Libano, e consiglio a tutti di vederlo se non l'avete visto. Poi la Russia invece è rappresentata da Loveless di Andrei Smyachnev, e mentre l'Ungheria, Corpo e Anima, di Il Dico, è il film che ha vinto l'Orso d'Oro l'anno scorso a Berlino, molto molto bello, molto intenso, emozionante, anche questo ovviamente consigliatissimo, transita ancora nei nostri cinema. E poi anche The Square, che rappresenta la Svezia, diretto da Ruben Östlund, che ha vinto la Palma d'Oro sempre l'anno scorso al Festival di Cannes. E dunque, se dobbiamo fidarci della matematica, a contare le nomination, il favorito di questa edizione, appunto l'ho detto, dovrebbe essere La forma dell'acqua, che ha collezionato ben 13 candidature, seguito da Dunkirk, che ne ha 8, e poi 7, I tre manifesti a Missouri. Sono i tre film proprio più candidati. Insomma, di quest'anno. Anna, io dimmi. Vi segnalo l'ultimissima chicca per l'animazione, che vede, è interessante, la candidatura di Loving Vincent, il primo cartoon per adulti in un settore dominato tendenzialmente per i ragazzi, quindi è l'animazione dedicata, è britannica e polacca, dello scorso anno, dedicata alla vita del pittore Van Gogh, diretta da Dorota Kobila e Hugh Welkman. È stato un evento meteora nei nostri cinema, però l'affluenza di pubblico ne ha prolungato a lungo la permanenza, quindi vedremo, vinca il migliore. Esatto.